L'OMS, l'inchiesta, la Cina, gli Stati Uniti, chi rompe paga, ma è davvero così? Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Tensions rising between the US and China. And if people would have known about it, it could have been stopped in place. It could have been stopped right where it came from, China. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Anche quest'oggi Nessun Luogo sarà lontano, anche quest'oggi la squadra di Nessun Luogo con Antonio Talia, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni. Quest'oggi invece abbiamo in assistenza Claudia Scattone e ritroviamo in regia Carmelo Lauricella. Commenti e domande, sms e whatsapp al 349-238-6666. Tengo d'occhio però anche i social. La pagina Facebook è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Gli account Twitter sono Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Per commentare, per porre domande, per criticare, perché no, sempre nell'alveo, lo raccomando sempre, di una buona educazione, evitare il turpiloquio, non ammetto commenti razzisti, sessisti, per il resto liberissimi di affondare pure il colpo, perché qualcuno lo sa fare e anche bene. 349-238-6666, dicevo, per commentare che cosa? Beh, sostanzialmente la notizia delle ultime ore è che ci sarà una commissione d'inchiesta che dell'OMS, ma al momento opportuno, che dovrà valutare le responsabilità sulla gestione del Covid-19. Con quali conseguenze? La macchina, diciamo, è stata trainata dall'Australia, ma Trump e gli Stati Uniti più di tutti forse stanno puntando a questa commissione d'inchiesta. Forse sotto mentite spoglie, quelle sanitarie e quelle della salute pubblica a livello mondiale, diventeranno l'ennesimo campo di battaglia per le due grandi potenze che si confrontano ormai da anni, che sono Cina e Stati Uniti. E in ultima istanza, anche se la commissione d'inchiesta valuterà delle colpe, sarà possibile davvero chiedere i danni alla Cina? Questo è il tema di questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Carmelo, però, la prima cosa da fare, come ogni giorno, è andare a sfogliare i nostri dossier. Il primo ci porta in Libia, come sapete è una situazione che stiamo controllando e stiamo raccontando ormai da parecchi mesi, da più di un anno, da quando è partita l'offensiva del generale ribelle Khalifa Haftar. Ad un certo punto, con le forze di Haftar sostenute da mercenari russi, dall'aviazione degli Emirati Arabi Uniti, persino dall'Egitto, sotto traccia anche dalla Francia, si temeva per la caduta di Tripoli, il governo di al-Sarraj sostenuto dalla comunità internazionale e in maniera militare, più fisica, più corposa anche da Ankara, dalla Turchia. Però poi a un certo punto il peso specifico di quello che è il secondo esercito forse più potente della NATO, quello turco, benché per interposta persona, sto parlando dei 2000 più o meno siriani ottomani che stanno combattendo sul fronte sud di Tripoli, pare che stiano avendo la meglio. La notizia in particolare che vi sottopongo è quello della perdita da parte delle forze di Haftar di un'importante base aerea, aeroporto, quello di Watia, siamo a 130 km a sud-ovest di Tripoli. L'annuncio è stato dato dallo stesso al-Sarraj, che ha ovviamente espresso soddisfazione e ha sostanzialmente detto: guardate, Haftar ormai ha i giorni contati, questo è l'inizio della riscossa. In particolare poi c'è un'altra città, un altro quadrante che in qualche modo da alcuni analisti viene battezzato come un avamposto da parte di Haftar a est di Tripoli. È sotto pesante attacco sempre da parte delle forze di al-Sarraj e potrebbe cadere molto molto presto. Quindi, nonostante le prove muscolari di Haftar che continua a bombardare con i razzi Tripoli, potrebbe essere in qualche modo un punto di svolta di questa guerra, anche perché la presa, se avvenisse, la presa di Taruna a est di Tripoli andrebbe a spezzare quella lunga linea logistica che da Bengasi, l'est del paese, arriva fino all'ovest a Tripoli. E immaginate, in una guerra lunga e logorante come questa, che cosa significhi andare a interrompere il flusso di mezzi, di uomini, di cibo, di munizioni. E per Haftar forse è arrivata, o inizia a intravedersi all'orizzonte, la resa dei conti. Poi Poi vi porto in Iran perché c'è una forte presa di posizione e azione da parte della magistratura iraniana. Il caso dell'abbattimento accidentale del jet ucraino sui cieli di Teheran da parte dei Pasdaran lo scorso 8 gennaio, ve lo ricorderete, nel bel mezzo della forse più grave crisi mai attraversata tra Iraq, Iran, Stati Uniti e appunto il regime degli Ayatollah, è stata sottoposta a un'indagine della magistratura militare iraniana a seguito soprattutto delle denunce dei familiari delle vittime. Secondo il portavoce della magistratura di Teheran, Ismaili, alcune persone sono state convocate, interrogate e si sarebbe proceduto anche ad alcuni arresti. E si attendono tuttora i risultati delle analisi delle scatole nere compiute dagli esperti del Ministero dei Trasporti. Questo ritardo, i fatti tragici risalgono all'8 gennaio, è dovuto in larga parte proprio alla crisi e all'emergenza da Covid-19. Ricorderete anche la grande polemica per il fatto che Teheran si rifiutava di consegnare le scatole nere, quei meccanismi che registrano tutte le anomalie in caso di incidenti aerei, a qualsiasi attore esterno, e Kiev intanto ha minacciato di appellarsi alla Corte Internazionale di Giustizia proprio per questi ritardi nell'inchiesta di Teheran. E giusto per stare in quel quadrante, di poche ore fa la notizia che un razzo ha colpito un edificio vuoto situato all'interno della Green Zone a Baghdad. Sapete che è il quartiere fortificato dove hanno sede la maggior parte delle ambasciate, le rappresentanze straniere, tra cui anche quella statunitense, è considerato il luogo più sicuro di Baghdad, non lo è più da qualche mese a questa parte. Non sono state registrate vittime, non ci sono rivendicazioni, però è un attacco che sembra molto molto simile a quelli subiti dalle rappresentanze americane proprio a Baghdad negli ultimi mesi, nelle ultime settimane. La tensione tra Washington e Teheran era cresciuta nell'ultimo anno. Parallelamente ricorderete il ritiro quantomeno parziale dall'Arabia Saudita delle batterie di missile Patriot e di alcuni velivoli da guerra da parte degli Stati Uniti. L'amministrazione sosteneva che Teheran non fosse più una minaccia così stringente. Dall'altra parte però abbiamo un Israele che continua a invocare Teheran come una fortissima minaccia, e questo segnale è probabilmente riconducibile a qualche milizia filo iraniana che continua a bersagliare la cosiddetta zona verde di Baghdad, per cui dire la tensione si è allentata forse è un po' prematuro. E infine l'ultimo dossier che vi sottopongo, ve lo ricordo, i dossier internazionali che sfogliamo teniamo sulla redazione virtuale per il momento, siamo tuttora in smart working qui e nessun luogo lontano, sono tutte quelle notizie, quei fatti che arrivano dai luoghi del mondo che o sono state notizie puntate di nessun luogo lontano o diventeranno molto presto approfondimenti. Tempi duri per Macron ed è l'ultimo spunto che vi sottopongo. Andiamo in Francia, un nuovo gruppo parlamentare è stato formato questa mattina all'Assemblée Nationale francese, dove la Repubblica En Marche, il partito del presidente Emmanuel Macron, ha perso la maggioranza assoluta che deteneva dalle elezioni politiche del 2017. 17 deputati, 7 dei quali proprio provenienti dal partito di Macron, hanno formato un nuovo gruppo, Ecologia, Democrazia e Solidarietà. Si dichiarano indipendenti, né con la maggioranza né con l'opposizione. Staremo a vedere, perché l'ambizione potrebbe essere quella di diventare un nuovo ago della bilancia della politica francese. Sono arrivati i primi messaggi al 349-238-6666, lo ricordo, il tema di quest'oggi è l'inchiesta che dovrebbe partire una volta che si calmeranno le acque per stabilire quali sono le responsabilità rispetto alla propagazione del virus Covid-19. In realtà non ha vinto esattamente Trump e nemmeno l'Australia, più una linea moderata, quella europea, non ha vinto nemmeno la Cina perché Xi Jinping aveva rigettato al mittente ogni accusa. Quando la crisi vera e propria sarà passata, si procederà con una commissione di investigazione per capire le reali responsabilità. Detto ciò, partiamo dalle voci di chi? Di Xi Jinping in persona. La Cina ha agito con spirito di collaborazione, trasparenza e responsabilità. Abbiamo trasmesso le nostre informazioni all'OMS e ai vari paesi coinvolti nel minor tempo possibile, così come abbiamo codificato il genoma del virus in tempi brevi. Abbiamo inoltre sempre dato il nostro supporto ai paesi in difficoltà. Così parlava il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping, mentre Donald Trump, dall'altra parte, a parecchie migliaia di chilometri di distanza, accusava l'OMS di essere sostanzialmente un burattino nelle mani dei cinesi. Sentiamo. The United States pays them $450 million a year, China pays them $38 million a year, and they're a puppet of China. Prima di definire quelli che sono i contorni giuridici di una possibile azione legale, ne parlammo già qualche settimana fa qui nel suo luogo lontano, raccontandovi anche di una serie di class action che da più parti nel mondo, ricordo il caso indiano per esempio, si stavano levando contro la Cina. Dicevo, prima di definire il perimetro giuridico di quanto davvero sia possibile chiedere il conto di questi cocci che sono rimasti in mano a tante popolazioni, a tanti stati nel mondo, vi ricapitolo quelli che sono i termini dello scontro. Ieri il presidente Donald Trump, il presidente statunitense, ha inviato in una lettera al capo dell'OMS un messaggio nel quale concede all'organizzazione 30 giorni per apportare modifiche sostanziali al comportamento dell'OMS stessa, minacciando il ritiro del sostegno finanziario americano. Modifiche sostanziali, direte voi, quali? Beh, non ve lo so dire perché il presidente Donald Trump in questa lettera non le ha specificate. Tra le varie accuse durissime, l'OMS avrebbe ignorato credibili testimonianze su una diffusione del virus a dicembre. L'OMS non ha lanciato l'emergenza su pressione di Xi Jinping, l'OMS non ha criticato la mancanza di trasparenza cinese, l'OMS non ha commentato le discriminazioni in atto in Cina contro cittadini di stati africani colpiti dal Covid-19. E ora che succede? Beh, che Donald Trump minaccia di sospendere per sempre il budget dell'OMS al 15% statunitense. E in più gli Stati Uniti, e questo è un colpo basso per così dire, hanno chiesto l'ingresso di Taiwan dentro il board dell'OMS, che è stato rimandato a fine dell'anno. Perché dico colpo basso? Perché sostanzialmente Taiwan è un pezzo di Cina che è fumo negli occhi per Pechino, e sia mai che venga legittimata in un consesso internazionale. Questa è la parte statunitense. Quella cinese, nel discorso di ieri davanti all'assemblea dell'OMS, Xi Jinping, come avete sentito, ha invece ribadito quella che è stata la trasparenza da parte di Pechino, ha lanciato un appello al multilateralismo. Segniamoci questa parola perché potrebbe essere la chiave per interpretare questo ennesimo scontro. Non soltanto un hashtag multilateralismo, ma anche tanto denaro sonante, perché ha detto Xi Jinping che finanzieranno la lotta al Covid-19 con 2 miliardi di dollari nei prossimi 2 anni e metterà a disposizione il vaccino, se eventualmente fosse trovato nei laboratori cinesi, a disposizione, dicevo, di tutto il mondo. (349) 238-6666 per i vostri messaggi, i vostri commenti, sostanzialmente la vostra voce qui nel dibattito di Nessun Luogo è Lontano. Fatemi però salutare e dare il benvenuto alla professoressa Agostina Latino, insegna diritto internazionale, Università di Camerino, LUISS di Roma. Professoressa, buongiorno e benvenuta a Nessun Luogo. Buonasera a lei, grazie dell'invito. Allora, professoressa, lei recentemente ha pubblicato un articolo molto denso sul sito di ISPI, l'Istituto per gli Studi per la Politica Internazionale online, appunto, in cui ricapitolava sostanzialmente la possibilità di fare causa alla Cina. Anche tra i tanti ascoltatori che scrivono in questo programma, molto spesso viene evocata questa possibilità e anche a volte viene sostanziata con delle cifre, alcune decine di miliardi, per esempio. Proviamo a mettere un po' di puntini sulle i. Innanzitutto le chiedo se si è mai verificato un caso simile, cioè una nazione, un gruppo di nazioni che fa causa sostanzialmente a un'altra nazione per danni sanitari. In buona sostanza la risposta è molto breve: no, non si è mai verificato, anche perché prima di trovare un gruppo di stati o anche solamente uno che affermi di aver subito dei danni, bisogna trovare un giudice. Si diceva ci sarà un giudice a Berlino. Il problema è a quale giudice presentare una simile richiesta. Perché l'ordinamento internazionale è un ordinamento sostanzialmente orizzontale, c'è una piena parità tra le sue componenti. Non c'è, per intenderci, il giudice naturale precostituito per legge, quello a cui io devo rivolgermi nella misura in cui litigassi con il mio vicino. Non dovrei trovare un accordo con il mio vicino per individuare un terzo che dica in questa nostra lite chi ha torto e chi ha ragione. Nell'ordinamento internazionale è all'opposto: affinché un'autorità giudiziaria, anche arbitrale, eminentemente arbitrale, possa dire chi ha torto o chi ha ragione in una lite, Occorre che le due parti che sono in controversia innanzitutto si mettano d'accordo per attribuire a questo terzo questo potere. E la Cina sta continuando a dire di no in tutti i modi. Volevo, se posso, dire una piccola cosa relativamente al fatto che lei nell'introduzione giustamente stava richiamando il fatto che ieri e oggi è riunita l'Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sì. È la sua 73esima riunione, e andando a guardare la proposta di risoluzione, questa di cui tanto si sta parlando, siccome io purtroppo di formazione professionale vado a guardare il dato normativo, è una risoluzione di 7 pagine nelle quali, sa quante volte compare il nome Cina? Compare soltanto una volta fra coloro i quali stanno presentando questa sì. risoluzione. Sì. Perché in realtà nel corpo della risoluzione non si parla assolutamente di Cina. Mm. Si dice solamente nel penultimo punto, quindi bisogna arrivare proprio a fondo corso, sì. per trovare l'invito a creare una commissione che valuti in modo imparziale, indipendente ed esauriente l'origine di questo virus. Ma siccome nei punti precedenti la cosa che si chiede è di mettere in comune, nella misura in cui si dovesse trovare in tempi rapidi, il vaccino, e quindi in spregio alle regole del TRIPS, del Trattato sulla tutela della proprietà intellettuale, chi non compare in questa risoluzione? Gli Stati Uniti, che ovviamente lungi da loro l'idea di volere mettere in comune l'eventuale vaccino. Quindi il problema è a monte per quanto concerne la giurisdizione internazionale, sì. perché le corti che ci sono, anche la Corte dell'AIA, la Corte Internazionale di Giustizia, giudica solo se gli stati le sottopongono, andando a braccetto questa sì. controversia. Sì. E qui la Cina non ha nessuna intenzione di farlo. Quindi in buona sostanza, professoressa Latino, chiedo scusa per l'interruzione, è come se fosse è un diritto consensuale, se tutti gli attori non sono d'accordo e il giochino finisce qui. Assolutamente sì. Allora, nelle parole, il commento della professoressa Agostino Latino, esperta giurista, diritto internazionale, Università di Camerino e Luiss, stiamo provando a esplorare quello che in realtà è un territorio abbastanza inesplorato, anzi totalmente inesplorato. E c'è un aspetto, professoressa Latino, che in questi giorni molti ascoltatori al 349-238-6666 hanno sollevato: chiedere i danni, chiedere i risarcimenti. Una domanda. Come si possono raccogliere, per esempio, le prove a distanza di così tanto tempo dal fattaccio, tra virgolette, evidentemente? Cioè, se questa commissione dell'OMS si muovesse adesso nei fantomatici, famigerati laboratori di Wuhan e nel mercato del pesce, potrebbero trovare qualcosa? Ha senso un'inchiesta a mesi di distanza? Secondo me non ha granché senso, perché comunque vada... chi la pensa in un modo risulterà confermato nella sua posizione, cioè laddove non si trovasse nulla, facile sarebbe dire beh, è passato talmente tanto tempo che figuriamoci, ci hanno occultato tutte le prove. Laddove si trovasse anche il minimo dubbio, chi invece pensa che appunto siano colpevoli direbbe lo vedi, non si sarebbe trovato nemmeno questo piccolissimo indizio. E quindi è una commissione che lascia molto il tempo che trova, premesso il fatto che io continuo a non pensare che la Cina aprirà loro la porta, perché è un tre così accomodi che la Cina è ben lungi sì. dall'accettare sì. perché è impositiva. E fra l'altro anche qui l'articolo 82 di quella che viene chiamata Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre normalmente si usa il termine statuto, dà la possibilità all'Assemblea di decidere di stabilire delle commissioni, ma non ha il potere di imporsi sui suoi stati membri, quindi non può decidere la nascita di una commissione, ma comunque per poter andare sul luogo occorre il consenso della Cina, che non mi sembra proprio intenzionata a darlo, perché è veramente sul, come dire, è additata come la strega malefica del mago di Oz. In più, chiedere i danni, ricominciamo da capo, sì. per chiedere i danni io devo andare da un giudice, quindi anche una class action a cui faceva riferimento lei, sì. io la devo presentare davanti a un giudice che prima di arrivare al merito della questione, quindi vedere se c'ho torto o c'ho ragione, sì, bisogna capire quale giudice potrebbe andare a prendere in mano questo fascicolo. Esatto, il giudice nazionale, nel momento in cui io, Agostina Latino, muovo causa contro la Cina, la prima cosa che fa non entra proprio nel merito, ma dice in via preliminare: io non sono competente, perché nessun giudice interno può giudicare uno stato straniero. nessun giudice interno, né un giudice italiano, né un giudice statunitense, eccetera. Nelle parole di Agostino Latino, lo ricordo, docente di diritto internazionale, Università di Camerino, e Luis, il delicatissimo territorio in cui si sono cimentati Donald Trump, ma anche l'Australia, più di 100 paesi che hanno abbracciato questa ipotesi della commissione dell'OMS che dovrà indagare le responsabilità del Covid-19. Mentre, secondo molti di voi ascoltatori, al 349-238-6666, la questione non ha affatto chiaroscuri, è molto molto chiara. C'è qualcuno, per esempio, che dice le responsabilità sono cinesi e sono chiarissime. Qualcuno aggiunge: se la Cina troverà il vaccino e lo metterà a disposizione gratuitamente, placherà ogni polemica. E qualcun altro: quindi, come sempre, aggiunge un ascoltatore, gli organismi internazionali contano poco o niente, le superpotenze si impongono sul mondo. E poi qualcun altro invece che invoca una soluzione particolarmente, a suo modo di vedere evidentemente, efficace: si potrebbe rimettere tutti i dazi contro la Cina finché non pagherà i danni. E questa è una delle ipotesi, una guerra commerciale totale, più di quello che già avviene, potrebbe essere un meccanismo sanzionatorio quasi informale, no, professoressa Latino? Perché se non troviamo il giudice giusto per dirimere questa controversia, se Cina e gli altri attori non sono d'accordo, gli altri attori unilateralmente potrebbero decidere: facciamo la guerra commerciale ancora più potente e prepotente fino a che non ammetti le responsabilità. Scenario forse non troppo auspicabile. Direi proprio di no, ma assolutamente plausibile, visto che comunque questa guerra dei dazi dovrebbe essere esclusa nel quadro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, organizzazione però che in questo momento si trova totalmente imbrigliata da un'inezia dell'amministrazione Trump nella nomina dei giudici dell'organo d'appello dell'organizzazione. Quindi di fatto l'Organizzazione Mondiale del Commercio è depotenziata nelle sue capacità proprio dagli Stati Uniti, che quindi vogliono riappropriarsi in modo unilaterale di quel diritto di farsi giustizia da sé che normalmente ha sempre regolato le relazioni internazionali. Tutta la storia che noi studiamo a partire dalle elementari, medie, liceo e quant'altro è una storia di conflitti, una storia di guerra, erano date su date da imparare a memoria con alleanze che cambiavano nel tempo. Questo tipo di sistema è proprio emblematico del fatto che nell'ordinamento internazionale ci si fa giustizia da sé, proprio perché non c'è il giudice. La nascita delle Nazioni Unite ha messo al bando il ricorso all'uso della forza, ma non alle contromisure. Quindi io posso, per tutelare un mio diritto, io Stato, per tutelare un mio diritto, posso farmi giustizia da me, con tutte le misure che siano legittime, purché non esondino dal divieto dell'uso della forza. Quindi sì, posso alzare le barriere commerciali, ma siamo sicuri che questo ci convenga, soprattutto per quanto la Cina e i prodotti cinesi servono al nostro emisfero? Sì, e con questa domanda la atterriamo sullo sfondo, ci prepariamo a chiudere la prima pagina di Nessun Luogo Lontano, ringraziando la professoressa Agostina Latino, Università di Camerino e Luis, che grazie alla sua esperienza e agli studi di diritto internazionale ci ha aiutato meglio a comprendere quello che, secondo alcuni, attenzione, lo anticipo, è una tesi, è una grandissima, gigantesca, colorita, folcloristica messa in scena dalle tinte geopolitiche molto molto forti. Grazie mille professoressa Latino, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Dalla voce di una giurista internazionale alla vostra: sì, non potrà mai ammettere errori, il leader cinese più potente di sempre. Se si mostrasse debole, scrive un ascoltatore, perderebbe la faccia sconfessando la sua stessa posizione. Tutto questo l'Occidente lo sa, per cui questi attacchi servono solo a giustificare un raffreddamento dei rapporti economici e politici in chiave strategica. 349-238-6666, ma anche Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter, Giampaz, ovvero Nessun Luogo 24, sui social, credo su Facebook, una domanda interessante. Un ascoltatore chiede: si sa se sono stati fatti gli esami sierologici agli atleti italiani e non che hanno partecipato ai giochi militari di ottobre 2019 a Wuhan? Così Andrea da Verona. Sono stati fatti dei test ad atleti svedesi, per esempio la pentatleta Melina Versberg, che si era sentita male durante i giochi insieme ad altri compagni di squadra, ma sono tutti risultati negativi. Immagino che Andrea da Verona volesse in qualche modo alludere al fatto che molto prima di dicembre-gennaio il virus era in circolazione, quantomeno nel distretto e nella città di Wuhan. Io direi, Carmelo, a questo punto facciamo una piccola pausa, chiudiamo lentamente la prima pagina, andiamo a sentire la borsa e poi apriremo la seconda. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Il giorno stesso in cui, a distanza di pochissime ore, è stata decisa la via europea, per così dire, quella un po' mediata, una commissione d'inchiesta all'interno dell'OMS andrà a valutare se la Cina ha fatto bene o ha fatto male, se ha nascosto qualcosa, se è stata tempestiva. Certo, i confini giuridici li abbiamo esplorati con la professoressa Latino e sono davvero davvero molto labili, molto difficili, come spesso accade quando si va a incontrare, direi scontrarsi in questo caso con il diritto internazionale. Però per esempio un'ascoltatrice dice su Facebook: un accertamento della probabilità di cosa sia accaduto avrebbe la sua dignità anzitutto storica, a mio avviso sì. Qualcun altro: lo scopo delle class action non è di riuscire ad avere un risarcimento, ma che ci siano molti paesi uniti per fermare l'impero del drago. Il boicottaggio commerciale è l'arma giusta contro i comunisti, così Shu scrive al 349-238-6666. Peccato che tante aziende anche dell'Occidente abbiano delocalizzato in Cina, e quindi bisogna anche stare attenti a questo tipo di intraprendenza, diciamo, bellico commerciale. 349-238-6666. Facciamo un piccolo passo indietro, andiamo a fotografare quella che è la struttura dell'OMS con particolare riferimento alle logiche di budget e finanziarie. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è l'agenzia speciale dell'ONU per la salute. Il suo obiettivo è il raggiungimento di uno standard sanitario elevato per tutte le nazioni. Nel 2019 il budget complessivo dell'OMS è stato di 5 miliardi e 600 milioni di dollari. Il bilancio dell'organizzazione viene finanziato attraverso la combinazione di contributi fissi e contributi volontari. I contributi fissi sono le quote che i paesi versano come membri dell'organizzazione e vengono calcolati in base alla ricchezza e alla popolazione del singolo paese. Nel tempo, però, l'importanza dei contributi fissi è diminuita, arrivando a rappresentare poco meno di un quarto dell'intero budget. La parte più importante del budget adesso è costituita dai contributi volontari. Si tratta di contributi elargiti dagli stessi Stati membri in aggiunta alla quota fissa, ma anche di versamenti provenienti da enti non statali come fondazioni, gruppi privati o le stesse Nazioni Unite. Gli Stati Uniti sono tuttora i maggiori contribuenti dell'organizzazione, con un finanziamento totale su base biennale di 893 milioni di dollari, di cui il 73% è volontario. La Cina contribuisce al budget dell'OMS con un apporto complessivo di 86 milioni di dollari, dei quali l'88% è rappresentato dai contributi fissi. L'OMS è diventata uno dei principali terreni di scontro tra Cina e Stati Uniti. Da un lato, Washington continua a minacciare l'interruzione di qualsiasi finanziamento e il ritiro dall'agenzia. Dall'altro, Pechino annuncia un ulteriore sostegno finanziario pari a 2 miliardi di dollari dilazionato nei prossimi due anni per sostenere la lotta globale contro il Covid-19. Trump accusa l'OMS di essere troppo dipendente dalla Cina, mentre Xi Jinping afferma totale trasparenza e contrattacca. Tra lo scambio reciproco di accuse, la questione dei vaccini e quella dei finanziamenti, l'OMS sembra diventata la nuova arena di scontro tra l'aquila statunitense e il dragone cinese. Questa in estrema sintesi il funzionamento e anche le logiche di budget dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. 349-238-6666, rispondo velocissimamente a Chia Jung, taiwanese, che si lamenta del fatto che io ho detto che Taiwan è un pezzo di Cina. Stavo, come dire, mostrando quello che è il punto di vista di Pechino, ovviamente. L'ascoltatore o ascoltatrice dice: Taiwan è una democrazia, c'è un presidente eletto, democraticamente eletto, non c'è dubbio. Tanto che ho aggiunto: Taiwan l'ingresso di Taiwan nel board OMS sarebbe fumo negli occhi per Pechino, perché lo ha sempre ostacolato. Chi studia da vicino anche queste vicende e le ha vissute anche, soprattutto dal punto di vista diplomatico, e do il benvenuto nel suo luogo lontano, è Alberto Bradanini, ambasciatore in Cina, presidente adesso del Centro Studi sulla Cina Contemporanea. Ambasciatore, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo. Buon pomeriggio a tutti. E do anche il buongiorno virtualmente dall'altra parte dell'oceano, dall'altro capo del mondo, Gianluca Pastori, professore di relazioni politiche tra Nord America e Europa, Facoltà di Scienze Politiche Cattolica, collabora anche con ISPI. Professor Pastori, buongiorno, ben ritrovato. Buona giornata. Allora, sembra che questa querelle, questa possibile inchiesta che avverrà, prenderà corpo quando le acque si calmeranno, diventi l'ennesimo terreno di scontro fra Cina e Stati Uniti. La Cina mette sul piatto 2 miliardi, però qualcuno sussurra che il vaso ormai è rotto e non è coi soldi che si ripara questo tipo di vaso. A che cosa può ambire adesso Pechino, ambasciatore Bradanini? Ma guardi, bisogna cercare di fare una sintesi dello scenario d'insieme. Assistiamo ad un capitolo ennesimo della rivalità strategica tra Stati Uniti e Cina, e sono naturalmente gli Stati Uniti a soffrire di più questa sfida storicamente inedita, essendo abituati negli ultimi decenni ad essere i padroni del mondo. L'America vuole perpetuare il suo dominio sul mondo, con le buone o con le cattive. L'idiocrazia americana, quell'imbuto dove tutti i paesi del mondo dovrebbero precipitare, vale a dire l'economia di mercato e la democrazia politica, secondo appunto la formula fortunata e anche discussa di Francis Fukuyama del 1992, che consente tra l'altro il dominio militare e finanziario americano sul pianeta. Ecco, l'America si percepisce quindi sotto attacco e farà l'impossibile per continuare a sopravvivere e prosperare nel XXI secolo, secondo lo stesso paradigma. Il mondo però è troppo grande per essere governato, anzi piegato, agli interessi americani. 330 milioni di individui contro 7,4 miliardi, ecco, mi sembra davvero un po' troppo. Alla Cina si aggiungeranno tra l'altro nei prossimi anni altre potenze emergenti, l'India, la Russia naturalmente c'è già, anche se insomma conta molto soprattutto sotto il profilo militare, e poi il Brasile, via dicendo, certamente con diversi pesi politici, militari ed economici. E anche economici, ma comunque certo. Il mondo diventerà sempre più multipolare e multicentrico. Ecco, e finisco su questo punto: gli Stati Uniti cercano dunque di ritardare il momento nel quale non saranno più la sola superpotenza, quando dovranno rassegnarsi a condividere il potere economico, tecnologico, finanziario e politico con altri paesi al mondo. E naturalmente la Cina in primis è quella che insomma indica la strada. Gli Stati Uniti rimarranno sempre la più grande potenza militare, e non solo, saranno anche una grande potenza economica, politica, eccetera, ma non saranno più i soli, ecco. Allora, dalla voce di Alberto Bradanini, è stato ambasciatore in Cina, adesso è presidente del Centro Studi sulla Cina Contemporanea, ben conosce il paese, ci ha raccontato sostanzialmente di un ex imperialismo statunitense che mostra sofferenza di fronte a una crescente importanza della Cina. Tante volte l'abbiamo raccontato qui a Nessun Luogo Lontano. Fatemi però andare dal professor Pastori, che insegna storia delle relazioni politiche tra Nord America e Europa, Università Cattolica. Professore, domanda omologa ma speculare: a che cosa mira Donald Trump? Si ha l'impressione che inchiodare la Cina in questo momento gli serva molto per fini elettorali interni, o c'è altro? È d'accordo con quello che diceva l'ambasciatore Bradanini? Sicuramente l'ambasciatore ha ragione nel momento in cui sottolinea il fatto che l'ordine internazionale in questo momento sta cambiando. Arriviamo da molti anni di bipolarismo, quindi di ordine, diciamo così, americano-centrico. Ancora prima, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, avevamo un sistema che sulla centralità degli Stati Uniti insieme a quella dell'Unione Sovietica era fondato, quindi sicuramente oggi stiamo vedendo qualcosa di molto diverso, qualcosa in cui gli Stati Uniti conteranno meno. Quindi anche a questo sicuramente Donald Trump si oppone, però credo che dietro agli attacchi di questi giorni alla Cina, all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci siano tante altre cose. Da un lato c'è sicuramente la volontà immediata di far dimenticare all'elettorato americano una pessima gestione della crisi Covid-19, perché non dimentichiamo, bene o male, gli Stati Uniti andranno a votare per il nuovo presidente il prossimo novembre. Mm. da questo punto di vista Donald Trump qualche interesse in gioco, sì, lo ha. Sì. In secondo luogo, dietro alle critiche all'OMS non c'è soltanto una critica alla Cina e al ruolo che la Cina svolge rispetto all'organizzazione, ma anche una critica generale al sistema multilaterale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è uno degli strumenti, uno dei bracci operativi delle Nazioni Unite, organizzazione nei confronti della quale Trump non ha mai dimostrato particolare simpatia. Anzi, ricordiamo tutti quando andò all'Assemblea Generale a raccontare ai delegati dei diversi paesi che, insomma, quello che conta veramente sono le posizioni nazionali, non è l'Assemblea Generale, non è l'ONU, non è il multilateralismo. Quindi non soltanto un attacco alla Cina, ma un attacco anche a un ordine internazionale che gli Stati Uniti hanno costruito. Questo può sembrare paradossale. Trump da un lato vuole difendere la primazia degli Stati Uniti, la rilevanza degli Stati Uniti nel sistema internazionale, l'egemonia, se vogliamo, degli Stati Uniti nel sistema internazionale, ma dall'altro lato sta attaccando la macchina che per 70 anni ha permesso a questa egemonia di perpetuarsi. E il tutto avviene, professor Pastori, in un momento di crisi sanitaria, quindi uno scenario inedito, un tavolo inedito per così dire. Siamo stati abituati a confronti in questi decenni militari, commerciali, tecnologici. Quello in ambito sanitario è decisamente inedito e proveremo ad affrontarlo, perché c'è un aspetto che vorrei sottoporvi, che è tra quello scientifico e quello sanitario stretto, che è la corsa ai vaccini. Facciamo una piccola pausa, chiedo di pazientare i miei due ospiti e poi affronteremo l'ultima parte di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo è lontano. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano siamo partiti dal perimetro giuridico di quella che sarà, quando le acque si saranno calmate, in questo senso si è stati un po' a metà tra la linea americana e quella cinese, quella europea per così dire. Quando le acque si saranno calmate ci sarà una commissione d'inchiesta dell'OMS per stabilire se vi siano state responsabilità. Abbiamo anche compreso, grazie all'ospite che era una giurista internazionale, la professoressa Latino, come in realtà dal punto di vista della prassi e degli eventuali risarcimenti ben poco si possa fare. Il diritto internazionale si fonda sul consenso, se non tutti gli attori sono d'accordo ben poco si può fare. Ma quello che è interessante, lo stiamo analizzando con gli altri due ospiti, Alberto Bradanini, già ambasciatore in Cina, attualmente presidente del Centro Studi sulla Cina Contemporanea, e il professor Gianluca Pastori, storia delle relazioni tra Nord America e Europa alla Cattolica di Milano, si sta delineando un nuovo ordine mondiale con un'amministrazione statunitense che in qualche modo demolisce quell'ordine che aveva gestito per una settantina di anni, non sopporta la parola multilateralismo che invece il presidente Xi Jinping prova a portare avanti. Torno dall'ambasciatore Bradanini per capire se secondo lei, tra poco sentiremo anche questa corsa ai vaccini in 90 secondi, se il terreno di scontro nei prossimi anni secondo lei possa passare sui piani strettamente dell'high tech sanitario, perché c'è un'ambizione da parte di Xi Jinping secondo me a trovare in fretta il vaccino e a diventare il grande hub sanitario mondiale, no? Questo potrebbe essere uno scenario secondo lei A, possibile, B, conveniente per Pechino? Guardi, in poche battute naturalmente non si può entrare in uno scenario molto complesso. A mio avviso la rivalità tra Stati Uniti e Cina si gioca su diversi aspetti. Uno politico e quindi soft power, e in termini di soft power, ahimè, purtroppo la Cina con la pandemia ha perso molti punti, che però non sono stati guadagnati da Washington, come giustamente ricordava un momento fa il professor Pastori, con il quale sono d'accordo per quanto riguarda lo scenario, diciamo, teleologico di Donald Trump, contraddittorio, che vuole distruggere ma anche piegare ai suoi interessi il sistema internazionale. Quindi la scena politica è il luogo dove si giocherà la rivalità strategica, ma anche quella economico-commerciale, lo vediamo con il dialogo e con lo scontro, dialogo e scontro nello stesso tempo, perché gli interessi si mescolano con la rivalità. Poi il piano tecnologico, intelligenza artificiale e diavoleri simili, e poi il piano ideologico teleologico, cioè il sistema cinese è un sistema che non vuole farsi normalizzare dall'ideologia americano-centrica, alla fine della storia, è un sistema chiamato dal Partito Comunista Cinese socialismo con caratteristiche cinesi, mai ben definite per la verità, ma comunque diverso dal sistema occidentale, dove prevale l'economia sulla politica. In Cina è il contrario. E da ultimo la sfida è anche geopolitica. Ed è una sfida che fa tremare, insomma, fa entrare in fibrillazione gli specialisti della CIA quando si pensa alla grande progettualità cinese di voler avvicinare i due estremi del continente Asia Europa, e cioè la Cina con l'Europa occidentale, passando attraverso la Russia e i territori ex sovietici, e quindi raddoppiando l'incubo americano che la Russia si avvicini all'Europa con l'aggiunta della Cina e con le altre ex repubbliche, quindi marginalizzando in prospettiva, parliamo naturalmente in prospettiva, marginalizzando la posizione degli Stati Uniti, che sarebbero relegati al di là dell'Atlantico, anche se con le loro flotte sono presenti in tutto il mondo. Insomma, questi sono temi, ciascuno dei quali meriterebbe di essere approfondito, ma credo di aver dato un flash di quali sono tanti terreni di scontro, ma anche di possibile dialogo. Questo voglio sottolineare. In realtà questo scontro dipende appunto dalla posizione, dal lessico che si utilizza, perché in ciascuno di questi ambiti c'è spazio per tutti e due, e ci sarebbe spazio naturalmente anche per altre potenze, persino dell'Europa se esistesse. Ecco, perché ambasciatore, c'è qualche ascoltatore che con sarcasmo dice: ma l'Europa sempre assente tra questi pesi massimi della grande politica internazionale. Torno da Gianluca Pastori, per professore dell'Università Cattolica di Milano, che studia soprattutto le relazioni tra Nord America ed Europa, e un attento osservatore ultimamente evidentemente della politica trumpiana. Questo disimpegno lo abbiamo raccontato tante volte, soprattutto dai grandi teatri medio orientali, ma non soltanto. Alla fine potrebbe essere un boomerang, perché rifare l'America grande, cantava Donald Trump, cantava in senso metaforico evidentemente, qualche anno fa, se ti ritiri non ce la fai. E allora come si fa a continuare a sdoganare l'egemonia americana? Come si fa a mantenere posizione di fronte a una Cina che sembra arrembante? E questa è la grossa contraddizione della politica americana. Trump ha promesso di fare l'America di nuovo grande, ma una politica di ripiegamento non è una politica che fa l'America di nuovo grande. Trump, creato nel 2006, 8 anni di amministrazione. Purtroppo la linea non ci sta soccorrendo. Proviamo a recuperarla. Intanto parlavo della corsa ai vaccini. Andiamo a fotografare in pochissimi secondi quella che potrebbe essere forse l'arma vincente nelle mani di chi? Beh, dipende dagli scienziati, dal laboratorio. Sentite. Governi, aziende farmaceutiche e istituti di ricerca di tutto il mondo stanno investendo milioni di dollari nella ricerca di un vaccino efficace contro il Covid-19. Quelli attualmente in fase di sperimentazione sono più di 100, ma solo 8 equip hanno iniziato i test sull'uomo iniettando i vaccini a volontari sani. A guidare la corsa in questo momento è l'azienda farmaceutica statunitense Moderna, che lunedì ha annunciato di aver ottenuto un importante risultato durante la prima fase di test su esseri umani. Sembra infatti che 8 volontari a cui è stato inoculato il vaccino abbiano sviluppato anticorpi senza mostrare gravi effetti collaterali. 4 degli 8 vaccini in fase avanzata vengono sviluppati in aziende e laboratori cinesi. CanSino Biological, che ha cominciato i test di fase 2, il Wuhan Institute of Biological Products, il Beijing Institute of Biological Products e Sinovac. Anche i vaccini sviluppati da Inovio, dall'Università di Oxford, in collaborazione con la multinazionale AstraZeneca, e da Pfizer, in collaborazione con la tedesca BioNTech, hanno avviato la sperimentazione sull'uomo. I principali esperti concordano sul fatto che in questo momento è essenziale sviluppare più vaccini contemporaneamente, perché l'urgenza di produrre miliardi di dosi per affrontare la pandemia supera di gran lungo le capacità di una singola azienda. Difficile avere un'idea precisa sui tempi. Solitamente la sperimentazione clinica di un vaccino richiede anni, ma nel caso del Covid-19 si spera di ottenere risultati entro 12-18 mesi. E questo è non solo potenzialmente, ma nei fatti il grande terreno di scontro, scientifico evidentemente, di corsa. Un po' di messaggi al 349-238-6666, qualcuno mi chiede perché i miei ospiti sono tutti anti-americani, qualcun altro, gli Stati Uniti non possono andare oltre, la Cina detiene alcuni miliardi di debito pubblico americano, questa è solo campagna elettorale. E qualcun altro, la Cina con la sua politica espansiva, soprattutto economica, ma anche col 5G, vuole sottomettere buona parte del pianeta, ma ora sta a noi non cadere in questa sudditanza. L'Italia non è certo forte da questo punto di vista, ma confido negli altri Stati Uniti in testa, così Claudio da Verona, che invoca evidentemente una maggiore presenza statunitense anche in Europa. Torniamo, vediamo se abbiamo ristabilito un buon collegamento dal professor Gianluca Pastori. Professore, vediamo se... Eccomi qua. Eccoci qua, insomma, stavamo parlando delle grandi contraddizioni dell'amministrazione statunitense che si ritira, e qualche ascoltatore però sta sollecitando questo aspetto ed è un po' il suo campo di lezione della materia. Al di là delle posizioni di Trump, agli Stati Uniti non converrebbe forse un'Europa più forte, professore? Il rapporto degli Stati Uniti con l'Europa è sempre stato un rapporto ambiguo. Gli Stati Uniti hanno avuto bisogno per anni di un'Europa forte. Sicuramente un'Europa forte dal punto di vista politico e dal punto di vista militare negli anni della guerra fredda, perché noi, diciamo così, eravamo un po' il muro contro gli altri che permetteva agli Stati Uniti di vivere anche relativamente sicuri. Sì. Venuta meno questa necessità, sono emerse le contraddizioni, perché tenere unita l'Europa per gli Stati Uniti è sempre stato un costo, un costo in termini economici, molto banalmente il costo della difesa comune, ma anche, ad esempio, e questo è un argomento che a Trump piace molto, il costo di tenere bassi dazi nei confronti dell'Europa per permettere all'Europa di esportare negli Stati Uniti. Ma non sono stati soltanto i costi economici, sono stati anche i costi politici. Per 45 anni gli Stati Uniti sono stati il paese che ha tenuto in equilibrio i rapporti fra i diversi stati europei. Sì, un po' il collante, dice lei, professor Pastori, e adesso gli altri avanzano. Mi dispiace, ma io devo davvero chiudere, siamo in chiusura. Ringrazio tantissimo il professor Gianluca Pastori, l'ambasciatore Alberto Bradanini, e naturalmente vi lascio a una sola parola, quella che arriva da Carmelo Lauricella. Io posso solo aggiungere i ringraziamenti per essere stati all'ascolto, i ringraziamenti a tutta la squadra di Nessun Luogo, l'appuntamento è per domani ore 16. Buona serata da Giampaolo Musumeci.